Notizia nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 15 marzo, il sole in regione sorto alle 6.19, tramonterà alle 18.14, la luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. In una situazione di mercato tra luci ed ombre continua l'avanzata commerciale del consorzio del prosciutto di San Daniele, che ha di recente modificato il suo disciplinare per essere più performante in Italia e all'estero. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi per la rubrica del bio alla lupinella, un foraggio alternativo ai tempi del cambiamento climatico. Per la storia del vino un ritratto di Bernardo di Chiaravalle, figura strategica anche nel mondo di enologia e viticoltura, protagonista dello spazio dedicato alle piante, l'umile Tarassaco, un gigante però in cucina e anche fitoterapia. Altro gigante, ma in contesti diversi, è stato il Purcitar, il macellaio nomade che assicurava la lavorazione del maiale, animale salvavita delle famiglie contadine per lunghi secoli. E per la trasgressione di mezza quaresima, i consigli gastronomici delle fritole con l'anima. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della luna, chiudono la puntata. Tempo di bilanci lo ha fatto da poco anche il Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Quali le evidenze? Lo abbiamo chiesto a Mario Cicchetti, che è il direttore generale del Consorzio. Sì, abbiamo avuto un 2019 che va letto sotto due aspetti. L'aspetto dei risultati produttivi del distretto, che hanno fatto segnare un calo della produzione di circa il 7% sul 2018, e questo calo di produzione è legato fondamentalmente a due situazioni specifiche di produttori che sono interessati da una crisi aziendale, e questo ovviamente ha portato a una diminuzione delle salature e anche una diminuzione di produzione di affettato, perché le vaschette prodotte quest'anno sono state solo tra virgolette 21.200.000, in calo del circa il 9% rispetto all'anno precedente. Sul fronte invece del mercato lo scenario è molto positivo, perché il San Daniele ha registrato un'ottima performance di vendita, aumentando una crescita dell'1,4% in volume e dell'1,6% in valore, quindi diciamo un'annata positiva al 100%, perché è anche a questo è collegato il fatto che l'export del prosciutto di San Daniele è aumentato di circa 3 punti rispetto all'anno scorso, ormai ci attestiamo intorno al 17%, 18% della produzione viene esportata, e interessanti anche i mercati in cui ci muoviamo, perché siamo molto forti in Europa, ovviamente in primis in Francia, Germania e Nord Europa, ma ormai anche gli Stati Uniti sono un mercato pesante, perché sono diventati il secondo paese di esportazione del San Daniele. Voi siete reduci anche da una modifica del disciplinare produttivo, cosa è cambiato? Ma abbiamo fatto questa manovra, che si è resa necessaria in un momento anche di riflessione dopo le difficoltà che ha avuto la filiera nel 2017, e quindi abbiamo sostanzialmente revisionato il vecchio testo semplificandolo, ma contemporaneamente l'abbiamo introdotto tutta una serie di elementi che tendono a caratterizzare di più il prosciutto di San Daniele e a preservare di più gli aspetti qualitativi. In primis abbiamo circoscritto sempre di più le caratteristiche genetiche dei suini che possono essere utilizzati per il prosciutto di San Daniele, e anche le caratteristiche delle cosce che da questi derivano. Poi abbiamo fatto un'attività abbastanza, diciamo così, puntuale anche sulle caratteristiche del prosciutto di San Daniele stagionato, quindi abbiamo riparametrato alcuni elementi del prosciutto, tipo il contenuto di sale, che è stato messo in un range più stretto rispetto al precedente, quindi i prossimi prosciutti di San Daniele saranno buoni come quelli adesso, anche con un contenuto di sale minore. L'ultimo aspetto che abbiamo curato, e quello un po' meno rilevante diciamo dal punto di vista qualitativo, sono le norme sull'etichettatura e sull'indicazione del marchio, che sono una parte tecnica che viene contenuta in disciplinari, e noi abbiamo rinnovato anche quella. In questi giorni di crisi coronavirus, problemi? Come tutti molti, logistici innanzitutto, perché abbiamo 31 produttori attivi, sono tra le aziende che possono produrre ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo, quindi siamo a pieno regime con tutte le cautele del caso, si registra sicuramente una tenuta del mercato per quanto riguarda la grande distribuzione. L'aspetto più critico si registra ovviamente sul canale ristorazione, bar e piccoli negozi. Musica. per la rubrica del bio oggi Cristina Micheloni ci parla della lupinella, un foraggio ottimo ai tempi del cambiamento climatico. Perché? Sentiamo. Le aziende che devono alimentare vacche, pecore e capre con i foraggi nelle ultime estati hanno dovuto soffrire non poco, proprio a causa di lunghi periodi di siccità che hanno ridotto di molto la disponibilità di foraggio. Non avere abbastanza foraggio proprio per queste aziende significa o andarlo a cercare altrove con difficoltà economiche ma anche di adattamento poi degli animali all'alimentazione diversa, o cambiare proprio il sistema di alimentazione, che è anche peggio e in termini economici e in termini di salubrità delle produzioni e di qualità dei prodotti finali. In Francia e in Inghilterra da un po' di anni c'è un grande lavoro di ricerca proprio sulle specie foraggere, di breeding ma anche di sistemi di coltivazione alternativi, per assicurare nei periodi di cambiamento climatico e soprattutto di eventi estremi, quindi dei periodi prolungati di grande siccità, per assicurare comunque la produzione foraggera in loco. Tra le varie specie su cui stanno lavorando per i nostri areali è particolarmente interessante la lupinella, che esiste già a livello di spontaneo nel nostro territorio ed era anche una specie coltivata e utilizzata come foraggio, che è stata un po' abbandonata per più produttive medica, trifoglio, eccetera. La lupinella ha il grande pregio di resistere a lungo alla siccità, quindi è stata abbandonata a suo tempo perché non produceva granché, meno rispetto alla medica, aveva alcuni problemi di attecchimento al primo anno, quindi per stabilire la copertura del terreno, ed è anche un'altra cosa importante, non era molto recettiva, diciamo così, alle concimazioni minerali. Tutto questo però ce la fa riportare di moda adesso che non vogliamo utilizzare concimi di sintesi, dobbiamo resistere ai cambiamenti climatici e soprattutto per il fatto che ci sono delle nuove varietà che ci arrivano dalla Francia appunto e dall'Inghilterra, che hanno delle ottime capacità di produzione, soprattutto se coltivate assieme ad altre specie. Per esempio un erbaio misto medica e lupinella ci dà una buona qualità di proteina, una buona quantità di massa, e oltretutto la lupinella ha delle interessanti caratteristiche per quanto riguarda la composizione. Per esempio i tannini, specifici tannini presenti nei suoi tessuti, hanno un impatto positivo per quanto riguarda la prevenzione dei vermi negli animali, e anche danno una quantità importante, sempre la composizione della lupinella, per quanto riguarda gli omega 3, che può essere anche trasferita al latte. Quindi lupinella da sola o in compagnia di altre specie diventa una cosa molto interessante da proporre anche nei nostri territori. Non bastasse tutto questo, è anche molto apprezzata dalle api, ha una bella infiorescenza, gradita alle api. Non è un caso che si chiama anche in italiano fieno santo. Bernardo di Chiaravalle è sicuramente una delle figure cardine nella storia del vino. Ce ne parla Roberto Zironi, che all'Università di Udine insegna enologia e ci cura questa rubrica. Bernardo di Chiaravalle. Così chiamato perché dopo 3 anni trascorsi nel monastero di Cittò viene inviato con altri 11 suoi compagni a fondare un nuovo monastero, in questo caso in Champagne, il monastero di Clairvaux, da cui deriva proprio il nome Bernardo di Chiaravalle. E dove rimane come abate sino alla sua morte nel 1153. Bernardo era una persona infaticabile e si attiva praticamente in 3 punti fondamentali, che sono la sua attività pastorale, si mette ad organizzare la comunità monastica e detto una regola fondamentale, cioè praticamente la comunità quando superava le 64 unità, 12 monaci dovevano lasciare per andare a fondarne un'altra in un altro luogo. Questo meccanismo porta quindi rapidamente a diffondere l'attività dei cistercensi nei 4 angoli del continente europeo, quindi ad arrivare ad avere alla sua morte più di 200 monasteri nel punto di massimo sviluppo della comunità oltre 300. E diciamo che la cosa fondamentale è che Bernardo influenza anche tutta quella che è l'organizzazione delle abbazie anche da un punto di vista architettonico. Tra i primi, tra l'altro, i cistercensi sono quelli ad avvicinarsi a quello che sarà poi lo stile dominante nei secoli successivi nelle chiese, cioè il gotico. Anche sull'attività politica Bernardo non è da meno, diciamo che sia nella politica ecclesiale, infatti i papi Eugenio III e Benedetto XII provengono dall'ordine cistercense e Bernardo viene scelto dal Papa Eugenio III come predicatore per promuovere la seconda crociata e, cosa poco conosciuta, contribuì alla redazione della regola, chiaramente sul modello cistercense, dei Cavalieri Templari. Praticamente il Cavaliere del Tempio, un monaco guerriero che fa uso di due spade, una per impegnarsi nella lotta contro il male e un'altra per porsi a difesa degli uomini oppressi che erano i pellegrini che dovevano andare praticamente in Terra Santa. Diciamo che per chiudere mi piace ricordare una serie di Bernardo che avrà una notevole influenza sulla storia dell'enologia. Cioè, per assicurarsi un notevole appoggio politico alla notizia della seconda crociata, trova l'appiglio legale affinché il tribunale ecclesiastico annulli il matrimonio di Eleonora d'Aquitania con il re di Francia Luigi VII. Eleonora, libera dai vincoli matrimoniali, potrà quindi sposarsi con il futuro re d'Inghilterra Enrico II. L'Aquitania quindi per più di due secoli risulterà essere un territorio inglese in Francia e l'Aquitania è la regione intorno alla città di Bordeaux. È tra le prime piante a fiorire a febbraio, punteggia di giallo prati e vigneti ed è formidabile in cucina e fitoterapia. Oggi Antonino Daneluto tesse le lodi del tarassaco. Una delle prime erbe a fiorire già in febbraio è il tarassaco, che costella di giallo il tenue verde dei prati in attesa della primavera. Il tarassaco, o dente di leone, nome scientifico Taraxacum officinale, in friulano tale, è una pianta erbacea alta fino a 40 cm, perenne, con fittone verticale. Le foglie, addossate al terreno, sono lanceolate e roncinate, cioè con lobi marginali appuntiti e ritorti ad uncino. I fiori sono riuniti in un grande capolino giallo, solitario all'estremità di uno scapo cavo interno e circondato da squame ripiegate in basso. Alla fruttificazione il capolino assume una forma sferica e presenta numerosi acheni con pappo piumoso che volano via al minimo soffio, tanto che il tarassaco è detto anche soffione. È pianta sinantropica diffusa in tutta la nostra regione. Il suo habitat è costituito da prati concimati, ambienti ruderali, siepi, schiarite di boschi caducifogli. In cucina le foglie giovani e tenere, gradevolmente amare, si utilizzano in diversi modi. Crude, consumate in insalata da sole o con altre verdure, costituiscono le cosiddette insalate depurative primaverili. Cotte, vengono servite come gli spinaci. In tempi di miseria le foglie crude, anche le più coriacee, venivano condite col sich, siero del latte inacidito che sostituiva l'aceto, e con lardo tagliato a cubetti e fritto. Del tarassaco si consumano come capperi i boccioli privati delle squame e lasciati per qualche mese sotto aceto e sale. Il miele di tarassaco è uno sciroppo denso come il miele che si fa aggiungendo dello zucchero all'acqua gialla ottenuta con la bollitura di fiori ligulati. Le radici tostate sono un succedaneo del caffè. In fitoterapia le foglie sono utili nelle inappetenze e nelle dispepsie. Le radici, raccolte da maggio a novembre, contengono, fra le altre, sostanze amare e sali di potassio. Pertanto sono eupeptiche, aumentano la produzione della bile e favoriscono lo svuotamento della cistifellea. Sono depurative e leggermente lassative. Hanno una marcata attività diuretica che giustifica l'appellativo volgare pisciacane, presente anche nella parlata friulana come pissechian. La droga non è però consigliata a chi soffre di disturbi gastrici da iperacidità e di occlusione delle vie biliari. L'azione disintossicante del tarassaco ha effetti benefici sulla pelle, la rende fresca e luminosa e inoltre schiarisce le lentiggini. Le virtù medicinali di questa pianta erano conosciute fin dai tempi antichi. Era molto apprezzata anche dai romani che la chiamavano erba benedicta. Cronache suine nella nostra pagina dedicata al maiale e alle sue tradizioni. Siamo in fase di trasformazione e Adriano Del Fabbro ci racconta l'arrivo del norcino in casa con la sua personalissima attrezzatura Duttington Sport. Come lo scrittore ha la sua penna preferita, così il Pulcitare era assai geloso dei propri attrezzi. Oltre a essere sempre professionali, puliti e affilati, spesso provenivano da fuori del Friuli e dall'Italia, dalla Svizzera, dagli Stati Uniti, per cui avevano bisogno di una cura particolare. Venivano trattati come gioiellini e utilizzati esclusivamente dal norcino o sotto la sua stretta sorveglianza. Nell'apposita sporte che accompagnava il norcino durante tutti i suoi spostamenti, in realtà non è che ci fossero molte cose. Oltre allo scanarin, c'erano sempre e comunque i coltelli, quelli personali, usati esclusivamente dal norcino stesso, e dei coltelli da battaglia che venivano messi a disposizione degli aiutanti maldestri che, in questo modo, non gli rovinavano i suoi, quelli più preziosi. Lavorare attorno alle ossa è assai difficile, per cui c'erano grossi rischi che le lame si rovinassero presto se utilizzate incautamente. A risistemare un po' le cose ci pensava l'acciarino, sempre a portata di mano sul tavolaccio. Poi c'era la pistola, impugnata anch'essa soltanto dal norcino, poiché necessitava di precisione assoluta nel suo utilizzo di prima mattina. Fondamentali inoltre le due macchine che venivano smontate per essere trasportate, il tagliacarne e l'insaccatrice. Negli anni hanno subito varie evoluzioni tecniche. Le prime insaccatrici erano quelle a stantuffo verticale, con tre formati di imbuto d'uscita, più sottile per la salsiccia, medio per il cotechino e grosso per i salami e gli altri insaccati, lo soccolo, la soppressa, la costa, la pancetta. Poi sono arrivate quelle a vite senza fine, sempre manuali, orizzontali, e attualmente si utilizzano quelle con il motore elettrico. C'era anche il tiraspaghi, una macchinetta un po' strana che al momento delle legature dei salumi il norcino si faceva bloccare sulla spalla per farvi scorrere lo spago con delle precise manovre. Completavano il suo bagaglio alcuni uncini, per appendere i vari pezzi di carne, una o due spatoline per pulire il tavolaccio che non era certo perfettamente liscio e il forop, il bucatore. Non c'era molto altro nella borsa fatta di cartoccio del macellaio nomade che così si spostava agevolmente in bicicletta da una famiglia all'altra, mettendosi a tracolla il tritacarne e l'insaccatrice. Molte delle altre cose che gli servivano, spago, accetta, ceppo, stracci, le trovava disponibili in ogni casa. Anche in regione era usanza sospendere per un giorno i divieti della Quaresima e sbizzarrirsi anche in cucina, come ci spiega Roberto Zottar, che ci dà la ricetta di varie fritole, rigorosamente con l'anima. Il periodo del mangiar di magro una volta veniva interrotto per un giorno a mezza Quaresima, secondo un costume antichissimo in uso sia in Friuli sia in altre parti d'Europa. Anche la Chiesa, nella domenica di mezza Quaresima, abbandonava le gramaglie a favore di un colore rosato per i paramenti sacri. I divieti alimentari propri del periodo venivano accantonati e tutta la comunità faceva un codicillo al carnevale. Questo codicillo nel Friuli occidentale, a Pordenone e a Porcia, si manifestava attraverso il processo e il rogo della veccia, usanza simile e la sega veccia, tipica del nord Italia e dei paesi slavi. Valentino Ostermann a fine 800 scriveva: a metà quaresima, almeno fino al 1848, quasi in ogni paese si usava bruciare la veccia, una figura gigantesca di cence carta con in testa una grande cuffia bianca. Durante la cerimonia si lanciavano razzi e suonava la musica. In città, specificava Ostermann, a mezza quaresima si usa indire un veglione mascherato. In molte famiglie si fanno anche i dolci, crostui e fritulis, come in pieno giovedì grasso. Un detto popolare, invece, invitava a ballare ma non a mascherarsi per la mezza quaresima, ammonendo: «Sa mettessi il peciot tamuse in quaresima, su resta attaccato», ossia se mettete la maschera sul volto in quaresima, vi resta appiccicata. A Gorizia questa festa di mezzo era detta Trimbus Trambus e in molte località la mezza quaresima coincideva con i festeggiamenti di San Giuseppe, data in cui tradizionalmente si affettava il primo salame dopo il purcitamento di Sant'Andrea a novembre. In Carnia si organizzava anche il lancio da scidules, rotelle di legno infuocate, dedicate in particolare a San Giuseppe e alla Madonna, e qualcuno sosteneva l'astinenza anche nell'incarnazione Domini il 25 marzo. Per oggi vi propongo quindi delle fritole salate, le famose fritole col'anima, che forse sono parenti delle pettole pugliesi. Si possono realizzare con palline di pasta di pane farcite di acciuga e poi fritte, oppure vi propongo le fritole di Daniela, ricetta del paese di Prosecco sul Carso, che si fanno impastando a lungo un chilogrammo di farina con una bustina di lievito per torte salate, 50 g d'olio, un bicchiere di vino bianco, un bicchierino di grappa, tre uova e un pizzico di sale. L'impasto deve essere molto morbido, si lascia riposare mezz'ora e poi si frigge l'impasto a cucchiaiate, inserendo nell'impasto un pezzetto di acciuga, sott'olio o sotto sale. Per facilitare l'operazione è bene immergere nell'olio bollente il cucchiaio ogni volta prima di prelevare una dose di impasto. Le fritole fritte devono rimanere di color dorato. Accompagnatele con un buon bicchiere di vino e buon appetito. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Alla Camera di Commercio di Udine, causa l'ordinanza sull'emergenza dell'epidemia Covid-19, le contrattazioni sono state rinviate e i mercati rispecchiano i prezzi precedenti, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,20 e 16,40 euro al quintale, IVA esclusa. La soia tra 35,20 e 35,50. L'orzo, con peso specifico 60-63, tra 16,20 e 16,70. Il frumento tra 19,10 e 19,40. Rispetto ad un anno fa, il mais è diminuito di 30 centesimi, il quintale e la soia aumentata di 2,50 euro. Mercato in sofferenza nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo, IVA esclusa. Quelle di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni pesanti anche nel settore dei vitelli da ristallo, con i Brubelga maschi quotati tra 5,80 e 6,20 euro al chilo, IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,20 e 4,60. I frisoni tra 1,40 e 1,70. E i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze leggermente attive invece nel comparto suinicolo, con il valore della tondola di 30 kg franco partenza fissato a 3,82 euro al chilo, IVA esclusa. E i grassi da macello in crescita a 1,51. Non muta il settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro il quintale, IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,70 e 13,20. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Arturo Puccillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Diamo un'occhiata a queste prime due settimane di marzo, mese che sancisce l'inizio della primavera meteorologica, che ricordiamo anticipa quella astronomica. Nei primi giorni due marcati fronti atlantici portano piogge intense, con valori oltre 100 mm in 24 ore su Udine e sulle zone orientali. Nevica copiosamente in montagna, localmente fino a 800 metri durante il primo fronte, e fino a fondovalle, ma solo in Carnia durante il secondo. Una tipica situazione sciroccale in cui in Carnia prevale l'effetto di regolazione termica dovuto all'intensità delle precipitazioni sull'aria mite portata dal vento. Quindi pioggia mista a neve a Tolmezzo, così come a Tarvisio, più alta però di quota di oltre 400 metri. Notevole il fatto che lo zero termico su Udine fosse a 1800 metri di quota, mentre stava nevicando a 300 metri di quota in Carnia. Restano solo 30-50 cm di neve a fondovalle, 50-70 in quota, fino a un metro oltre 2000 metri sulle Giulie. A Corredo, qualche temporale con grandine di piccole dimensioni, specie ad est e sulla zona di Trieste. Doverosa una considerazione sui cumulati di precipitazione. Sulle Prealpi, in tre giorni, è caduto l'equivalente dell'intero mese di marzo, stando alla norma climatica. Nei giorni successivi, dopo una breve pausa, arriva un altro fronte che genera una piccola depressione, tra il 5 e il 6, sull'Alto Adriatico. Piogge da moderati ad abbondanti e neve oltre i 400 metri sui monti. Venti da sud sulla costa. Dall'8 marzo, giorno di mimose, l'atmosfera si dispone a una maggiore stabilità, con giornate tra il sereno e il variabile, e temperature in graduale aumento. Da segnalare che dopo il 10 lo zero termico risale a ben 3500 metri. Venendo alle previsioni, nei prossimi giorni preverrà un promontorio di alta pressione, abbastanza resistente, con cieli per lo più sgombri da nubi fino a mercoledì, salvo velature o qualche nube bassa. Domani avremo ancora borino al mattino sulla costa, poi brezze. Le temperature saliranno dapprima in montagna, con zero termico di nuovo oltre 2500 metri, poi anche su pianura e costa, dove le massime di mercoledì e giovedì toccheranno e forse supereranno i 20 gradi in pianura, con marcata escursione termica lontano dal mare tra la notte e il giorno. Da venerdì gli scenari si fanno incerti, potrebbe avvicinarsi un fronte con scirocco e poi bora e piogge abbondanti nel fine settimana, come anche l'arrivo di aree più fredde da nord-est, con calo termico generalizzato. Per aggiornamenti, come sempre, vi invitiamo a seguire le previsioni di Osmer ARPA sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano dedicato alla luna, alle credenze, ai suoi influssi in agricoltura e non solo. Non è mai carnaval che non sei lune di febbraio, ovvero non c'è mai carnevale senza la luna di febbraio. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.